Capitolo 6. Brucia questa lettera. Quando mi svegliai ero sola. Un sole scialbo illuminava il lembo di Acropoli che faceva capolino dallo spiraglio del muro. Perché quella sensazione? Cercavo un appiglio che non fosse quello del vino, perché non era stato il nettare di Dioniso. Ero ben cosciente di quello che stava accadendo. Io volevo Iperide, lo avevo sempre voluto, fin dal nostro primo incontro nel tempio di Eracle a Cleone. Per i suoi occhi pieni di dolcezza, per le sue idee, per tutto ciò che rappresentava. Tutto questo spiegava la mia predisposizione verso di lui, ma c'era dell'altro. C'era l'attrazione verso le sue mani, la sua bocca, i suoi occhi, il suo odore profumato. Nessun appiglio a cui attaccarmi, nessuno. Mi alzai, mi infilai la tunica da uomo, scesi le scale cercando di non svegliare Ofione, ma il mio amico stava seduto lì al tavolo leggendo. Sollevò il capo chino sui fogli di papiro, gli occhi spiritati pieni di dolcezza. Sarà dura per me, Assiotea, quando la mattina mi alzerò e tu non ci sarai. E fece il gesto di mettersi in piedi, ma io lo raggiunsi e mi strinsi a lui. Sembra che tu non ti sia accorto di nulla, mio buon Ofione. Mi sedetti accanto a lui. Le sue mani enormi gesticolarono incerte. Credo che la stanzetta qui sopra conserverà a lungo le tue vibrazioni di felicità. Quelle, pur volendo, non potrai mai cancellarle. Non è stato il vino, amico mio. Si chiama amore. Portavo una mano ad affondare in quel terribile bosco di serpenti che era la sua zanzara bianca. Io amo Demos, lo voglio con tutte le mie forze. Mi mordevo le labbra cercando una scappatoia che non avrei mai trovato. Assiotea, non puoi comandare madre natura. Questo sì che sarebbe un atto di superbia da parte tua. Perdonami se ti parlo con tanta sincerità. Purtroppo il mio udito è stato sempre eccezionale. Quell'altra notte non potei non ascoltare Demos e mi fissava con uno sguardo così dolce da commuovermi. Anche Demos ti ama, eppure lui conosce le forze della natura. Sa che Iperide già aveva trovato un posticino nel tuo cuore. Demos è consapevole, sa che non può offrirti un amore completo. È stato lui per primo a spingerti ad essere felice con Iperide. E tese una mano verso la mia, incerta e tremolante, che accettò di essere stretta. Ho provato per la prima volta che cosa vuol dire accogliere un uomo nel mio corpo. Ho chiesto io a Iperide di restare ancora un po' dentro di me. Il pianto premeva sui miei occhi. Ma non dovevo farlo. Io sono anche un'altra. E di quest'altra Assiotea avevo una buona considerazione, ci andavo d'accordo, mentre è come se mi avesse tradito. Cercavo di sfilare la mano dalla sua tenerezza, ma non me lo permise. Assiotea, forse madre natura ha voluto che tu conoscessi quello che lei aveva ideato per la donna, forse non voleva che tu portassi dentro di te solo i segni delle violenze di Paionio. Piangevo. Forse Ofione era stato abile nel porgermi quell'appiglio, ma io mi ci stavo afferrando. Adesso ci vorrebbe tua madre accanto a te per raccogliere le tue lacrime, le confidenze più intime. E invece ti ritrovi questo vecchio rompiscatole che pretende di dare giudizi sull'amore senza averlo mai conosciuto. Liberò la mia mano girandosi emozionato, preso una ciotola piena di latte e un canestrino zeppo di dolci e me li porse, invitandomi a mangiare. Era come se volesse cambiare discorso. Perché non hai conosciuto l'amore, Ofione? L'espressione del suo volto da cupa saltò a gioviale. Stavo per compiangermi, cosa che non faccio mai. Sto invecchiando a vista d'occhio, figlia mia. Ebbene, devi sapere tutto di me. Sono o non sono il tuo padre adottivo? E allora conoscerai la mia storia questa sera al Pireo, dalle parti dove abita il nostro Eudosso, in un'osteria dove una volta al mese si riunisce il tiaso di Efesto, di cui sono fondatore. E Arconte Re. Il possente vocione era tornato a tuonare ironia e allegria. Non è uno scherzo, Assiotea. Gli affiliati sono in genere brutti e zoppi come il dio Efesto, brutti come me o timidi come Eudosso. Ci riuniamo una volta al mese per raccontarci le nostre disavventure amorose. Come puoi ben immaginare, è un'occasione per ridere di noi stessi e divertirci. Adepti sono anche due persone che ogni giorno vengono alla libreria a chiedere di te, Difilo e Peribea. Tu verrai in veste di simpatizzante animatrice e stai certa che piangerai, ma di gioia. Che te ne pare, figlia mia? E con aria sorniona mi spingeva la ciotola sotto il naso. Mi asciugai gli occhi col dorso di una mano. Presi a bere il latte. Ma tu prometti che racconterai le tue sfortunate vicende anche a me? Mi sforzai di sorridere. Fa parte del rito, stai tranquilla. E allora vai direttamente alla taverna assieme a Odosso quando uscite dall'accademia. Io invece al tramonto vengo col mio carretto assieme a Difilo, a Peribea e al segretario del Tiaso. Sorrise con aria di mistero, il suo faccione traboccava di gioia ritrovata. Raddrizzai la schiena. Non era facile scacciare dalla mia mente quella notte di vertigini, di fremiti di felicità. Forse con quei ricordi avrei dovuto fare i conti nel futuro. Quando Iperide, all'approssimarsi dell'aurora, mi aveva proposto di andare via con lui, di andare a vivere a casa sua, avevo rifiutato. Non avrei mai lasciato Demos. Iperide era rimasto sconcertato, non capiva. Eravamo una coppia perfetta, fatti l'uno per l'altra. Dovevo essere completamente sincera. Iperide fu tuo padre a introdurre la norma che gli schiavi delle miniere, se recidivi nel tentativo di fuga, sarebbero stati avvirati. Oltre al marchio fuoco sulla fronte, Demos fu evirato. No, non ce la farei mai a lasciarlo per vivere con te. Ma che colpa ne ho io per Zeus? Io sto lottando per abolirla, la schiavitù. Sono disposto a dare la mia vita per questa causa, che c'entra la condizione di Demos col nostro amore, Assiotea. E mi ficcava il suo sguardo stupito negli occhi. Iperide, ti scongiuro, ascoltami. Sei stato tu a riempirmi la testa con la storia del cuore che ha mille stanze, ma non ci credo. Non so come siete fatti voi uomini, né so come sono fatte le altre donne, ma non riuscirei mai ad amare due uomini, mai, anche se questi due uomini sono creature eccezionali come te e Demos. Le ore d'amore che abbiamo consumato sono state la naturale conclusione della nostra attrazione nata nel tempio di Eracle a Cleone. Forse era scritto che un giorno tu e io avremmo fatto l'amore per completare la nostra piccola grande storia. Nel frattempo, però, ci sono stati 5 mesi nelle miniere dell'Aurio, vissuti con Demos. Me ne sono innamorata senza rendermene conto, perdutamente. I miei occhi si annebbiavano di emozione calda. Sentivo che traboccava con violenza, volevo che capisse. Per finire, mi ha salvato la vita. Con lui divido gli stessi sogni che divido con te. Ma lui ha bisogno del mio amore e a me non importa che sia stato evirato. Iperide scuoteva il capo, non si rassegnava, ma capì la mia determinazione. Se è questo che vuoi, non mi rimane che accettarlo. Ma allora hai fatto male a giacere con me questa notte perché la tua vita con Demos potrebbe diventare un inferno. Mi baciò gli occhi. Credimi, Assiotea, ho avuto tante donne nella mia vita, mai però avevo raggiunto cieli così alti. Si era dileguato in silenzio, lanciandomi un ultimo penetrante sguardo che racchiudeva tutta l'intimità che ci eravamo scambiati. Eudosso era felice come un bambino al pensiero che anch'io avrei partecipato alla riunione mensile del Tiaso di Efesto. Mi domandò più volte se ero sicura di volerlo, se avevo una pallida idea di ciò che mi aspettava, soprattutto di quello che erano capaci di dire l'arconte re in arte Ofione e il segretario, Diogene di Sinope. Avrebbero partecipato anche Difilo, Peribea e lo stratega Coridemo. Avevamo da poco attraversato la porta sacra e ci dirigevamo verso i giardini di Accademo. Nella mattinata calda, le fronde degli alberi erano immobili, ma gli uccelli erano instancabili nel volare e cantare. Chiesi a Eudosso se conosceva gli argomenti che avremmo trattato quel giorno. Non ne aveva idea. Ultimamente, Platone lo decideva all'ultimo momento, senza uno schema prefissato. Con le sue lunghe gambe a Odosso mi stava sempre davanti e mai come quella mattina mi costava stargli dietro. Mi sentivo fiacca, strana, non riuscivo a deviare i miei pensieri dalla notte d'amore. Quale incantesimo usava Iperide? Che mi era successo? Chi era quella Assiotea? Non aveva avuto un solo attimo d'esitazione, non aveva pensato nemmeno per un momento a Demos. Si era lasciata trasportare dal profumo e dai baci di Iperide, come se quei momenti rappresentassero il compimento di una vita intera. Eppure quella ragazza abitava dentro di me e ora lottava affinché io che avevo coscienza di entrambe, io che avevo il timone in mano, non disperdessi almeno il ricordo di quel profumo e di quei baci. Ma quando quell'altra Assiotea aveva chiesto a Iperide di restare ancora un po' dentro di lei, anch'io, che mi tenevo stretta al timone della nostra vita, io che ero ben conscia e sveglia in quel momento. Avevo provato e la mia voce accorata si era sovrapposta al suo lamento d'amore. Iperide lo aveva percepito. Sembrava la voce di due creature diverse a chiedermelo, Assiotea, due creature. Questo mi aveva detto dopo, mentre io avrei voluto che restasse dentro di me per sempre. Che ti succede, Assiotea? Ti senti poco bene? Gli occhi di Eudosso cercavano i miei scrutatori. Mi ero fermata, appoggiandomi a una statua della musa Erato, mentre il mio amico aveva proseguito da solo. Tornò indietro, faccia più scavata del solito, ma vedendo che protendevo una mano, staccavo il fiore bianco della magnolia che abbracciava la statua e lo porgevo alla musa dell'amore. Aprì i suoi grandi occhi neri alla luce. Anch'io sono un po' umana, amico mio. Tornai a sistemare il fiore sul grembo della musa, perché nel frattempo era caduta ai piedi della statua. Altro che simbolo della libertà, sono nient'altro che una donna che vuole essere felice. Aver rivelato quel pensiero a Odosso fu come una liberazione per l'altra Assiotea, che non voleva che io piangessi a causa sua. Dovevamo affrontare insieme la vita. Sei questo e altro, Assiotea, e riprese a camminare, ma standomi accanto, gettandomi ogni tanto un'occhiata discreta con la coda dell'occhio. Quando in lontananza intravidi i giardini di Accademo, fui investita da un ricordo improvviso. Gli diedi uno strattone e ci fermammo. Dalla borsa che portavo a tracolla, cavai il foglio puzzolente che avevo preso il giorno prima nella cassapanca impregnata di pidocchietti rossi. Ascolta, Eudosso, quanto alla sferetta, c'è qualcosa che non va. Tu infatti sostieni che non ti è stata sufficientemente mostrata la natura del primo. Bisogna dunque parlare per enigmi, in modo che se a questa lettera succede qualcosa per terra o per mare, chi la legge non possa comprendere. Il fatto sta così. Intorno al re di tutti si trovano tutte le cose. Intorno al secondo stanno le cose seconde. Intorno al terzo le terze. Ci sono molte parti rovinate dall'umidità, dalla muffa e dai pidocchietti puzzolenti. Poi continua. Attento però a non far cadere tutto ciò nelle mani di uomini e bada a non doverti pentire un giorno per ciò che oggi si è trapelato in modo opportuno. La miglior tutela sta nel non scrivere, ma nell'imparare a memoria. È impossibile infatti che ciò che è scritto non sia divulgato. Ed è per questa ragione che io non ho mai scritto niente su tali argomenti. Non esiste né esisterà mai uno scritto di Platone, e quelli che ora passano per suoi appartengono al Socrate del tempo in cui era bello e giovane. Addio, e obbediscimi, e dopo che avrai riletto più volte questa lettera, bruciala. Eudosso prese il foglio dalle mie mani, rilesse lo scritto, me lo riconsegnò. Quindi si trovava in quella cassa. È una lettera scritta da uno dell'Accademia, o perlomeno la brutta copia. Il suo sguardo si perse nel vuoto, seguendo chissà quali pensieri. Cos'è la sferetta, Eudosso? Un modello di sfera celeste, una di quelle mappe che ti ho mostrato ieri, quella colorata. L'ho creata io chiamandola sferetta. Ma non ha niente a che vedere con il contenuto del foglio. È un linguaggio criptato. Sia lo scrivente che il ricevente conoscono il codice. Che saranno queste cose prime, seconde, terze? Un'espressione enigmatica si impossessò dei suoi occhi e calò sul suo volto. Forse sferetta indica non quella mappa celeste a cui ti riferisci, ma l'altra, quella delle statuine. E le cose prime, seconde e terze potrebbero essere miniere d'oro, d'argento e di piombo. Ripiegai il foglio, tornando a inserirlo nella borsa che portavo a tracolla. Eudosso mi fissava meravigliato, a bocca aperta. Per Zeus! Certo che potrebbe essere così! Per tutta la sacra famiglia dell'Olimpo! Dobbiamo batterli sul tempo, allora! Sono sempre più convinto che le due faccende siano intrecciate, che il grande ordinamento e le statuine racchiudono lo stesso segreto per la venerabile famiglia dell'Olimpo. Che intendi per batterli sul tempo? Le statuine. Noi siamo più bravi di loro a trovarle. Quando torna il tuo benedetto uomo? E fremeva emozionato. Fra una settimana più o meno. Appena arriva, senza perdere tempo, organizziamo una spedizione ad Abdera e speriamo che torni presto anche Racio. Riprese a camminare, invitandomi a fare lo stesso. Racio di Cirene? Il venditore ambulante di papiri dell'Agorà? Proprio lui è Sotea. È andato in Africa, a Cartagine, a caccia di una statuina. E camminava spedito, mentre io faticavo a stargli dietro. Se ci riesce, e se noi dovessimo trovarne un'altra ad Abdera, non ci saranno più dubbi. Lungo quella linea si trovano le miniere d'oro. Eravamo giunti in prossimità dell'accademia. Bloccai ancora una volta il mio amico. Eudosso, credo che dobbiamo essere molto prudenti. Ormai sono certa che mi hanno fatto entrare all'accademia per controllarmi perché io li conduca le statuette. So che mi seguono. Non è una sensazione, me ne sono accorta. Gli feci male al braccio con la mia mano nervosa. La lettera è del guardiano. Ed è un'ulteriore conferma che lui è uno dell'Accademia. E allora cerchiamo di non separarci mai. Stai sempre accanto a me, Assiotea. L'ho promesso a Demos prima che partisse, e di me puoi fidarti. Io non rappresento alcun pericolo per te. E arrossì violentemente. Sono iscritto al Tiaso di Efesto, insomma, al Tiaso di Ofione. Da molti anni ne sono un inguaribile veterano. Le sue guance si incendiarono di fuoco genuino. Presi a scuotere il capo, rinfrancata, e fui sul punto di rimproverarlo per avermi lasciata sola la sera prima. Invoco il sommo Zeus che tutto compie. Contrariamente alle mie idee, ho chiesto a Filippo Diopunte di sistemare tutti gli appunti sparsi sulle leggi, di ordinarne delle copie, in modo che voi tutti poteste leggere quest'opera. Ma non solo voi, anche l'arconte, gli strateghi, i magistrati, i sacerdoti. Non sarebbe male se le leggessero anche i poeti, i ginnasiarchi e i tragediografi. Voi sapete perché mi sono deciso a fare questo. Bisognava sperare che gli uccelli non venissero a cantare sull'ippocastano o che non soffiasse nemmeno un alito di vento, altrimenti la voce soffocata di Platone non si sarebbe udita. Il glorioso e potente stato ateniese, continuò, sta sbriciolandosi, polverizzandosi. L'uragano che lo sta facendo crollare è la libertà incontrollata di cui gode il nostro popolo. Gli ateniesi sono rissosi, presuntuosi, irriverenti verso gli dèi, verso i cittadini più importanti, verso strateghi e magistrati, verso i filosofi, verso l'ordine costituito. Questi sono i momenti peggiori che sta attraversando Atene dalla sua nascita. Qui non si tratta di proporre al popolo un'altra forma di governo. Democrazia, oligarchia, aristocrazia, monarchia sono destinate tutte a fallire se alla base non ci sono dei principi ordinatori, un'etica, una morale che possano guidare l'uomo a resistere a qualunque intemperie. La città ideale che ho sognato nella mia repubblica è stata criticata da molti, anche da alcuni di voi. E sollevò il capo, gettando un'occhiata obliqua, ferma e dura nella mia direzione. Eppure, sono certo che potrebbe funzionare, purché il popolo onorasse innanzitutto gli dèi, poi l'anima, per ultimo, e proprio per ultimo, il corpo. Cercò conferma nella faccia di Aristotele. Gli occhi scrutatori dell'allievo prediletto si aprirono, perdendo il severo cipiglio. E allora oggi cercheremo di riassumere questi concetti fondamentali, partendo dal più importante, ovvero dagli dèi. E conseguentemente faremo qualche riflessione sull'ateismo, che il fedele Filippo ha pensato di sistemare nel capitolo decimo. Ho parlato al plurale perché voglio sentire il vostro pensiero. Una breve sosta, il tempo di sfiorare con una mano una ciocca di capelli bianchi che si mischiavano alla lunga barba bianca. Innanzitutto partiamo dalla premessa che tutti i cittadini dell'Ellade e tutti i barbari ritengono che gli dèi esistono. Esistono esattamente come la terra, il sole, gli astri e tutti gli altri corpi celesti. E così come l'ordine perfetto delle stagioni diviso in anni e in mesi. Quindi noi non possiamo essere accusati di fare qualcosa di terribile stabilendo per legge che gli dèi esistono. Ho detto noi e no io perché queste leggi, anche se porteranno solo il mio nome, sono il frutto del nostro pensiero. È questa accademia che ha raccolto le leggi che guidano le Ellade e che dovranno guidare il mondo, il nostro e quello dei barbari. Ho detto noi perché qui abbiamo i migliori matematici e astronomi del mondo, Eudosso ed Eraclide. Platone volse il capo verso i due scienziati seduti accanto a me, mostrando un pallido sorriso sul volto. Entrambi sollecitati dalla mia istanza di perfezione divina del cielo, ebbene, Eudosso ha riportato la regolarità con la creazione delle 27 sfere circolari ed Eraclide con la scoperta che gli astri sono entità divine, come divino è l'etere infinito che riempie lo spazio dal quale derivano le anime. E rivolse la sua attenzione ad Aristotele. Certo, è un onore e una grande responsabilità diffondere queste leggi, persuadendo la gente che gli dèi non solo esistono, ma che si curano di noi umani, anche senza che noi gli offriamo preghiere e sacrifici. D'altra parte, è utile e necessario discutere ancora perché tutti noi, e non soltanto io, dovremo affrontare gentaccia come quel lurido pezzente di Diogene, il quale da sempre cerca di convincere il popolo ignorante che gli dèi non esistono e che tutte le cose che sono state, che saranno, sono opera alcune dell'arte, altre della natura, altre ancora del caso, che il fuoco, l'acqua, la terra, l'aria, il sole, la luna, gli astri, tutta questa meraviglia non è opera di una mente ordinatrice né di un qualche dio, ma della natura del caso. E piegò la bocca a una specie di smorfia. Detti un'occhiata a Eudosso, sembrava distante, annoiato, poi colse un'ombra di inquietudine negli occhi di Lastenia. Ebbene, inizia una discussione che vide protagonisti Senocrate e Pseusippo, il primo assumendo la parte del Clinia del dialogo nelle leggi e il secondo dell'Ateniese. Filippo e Teofrasto fecero dei rapidi interventi dietro richiesta di Platone. Aristotele, scuro in volto più del solito, concentrò il suo ragionamento sul fatto che era possibile provare l'esistenza di Dio a partire dal tentativo di spiegare la realtà del movimento. Comunque, anche lui era sicuro che il movimento degli astri fosse circolare, quindi perfetto. L'Astenia, spinta da Senocrate a dire la sua, pur non potendo rivelare nel dettaglio la sua esperienza avuta durante i misteri eleusini a cui aveva partecipato, raccontò che se prima aveva avuto dei dubbi sull'esistenza degli dèi, una volta uscita dal telesterion era diventata credente. Non poteva spiegarlo a livello razionale, ma credeva agli dèi, non solo perché la legge lo ordinava, ma perché, avendo un'idea corretta degli dèi, era felice di condurre una vita nobile. Mi sentivo scombussolata, tradita, fuori posto. Speravo almeno che si fossero dimenticati di me, che mi lasciassero in pace. E invece fu Aristotele che, senza guardarmi, rivolgendosi al maestro, con voce aspra disse: Platone sarebbe grato ad Assiotea di Fliunte se ci degnasse di una sua opinione. Io, invece, invoco Temi, divinità patrona dell'ordine e della legge, di non adirarsi troppo per ciò che Assiotea dirà. E riprese a passare in rassegna con occhi da civetta le dita adornate di anelli d'oro e pietre preziose nere. Il cuore mi batteva forte. Non per l'emozione, come il primo giorno, ma per la rabbia. Mi alzai in piedi. Io invece invoco voi, tutti, di avere pazienza e sopportazione nei miei riguardi. Avrei preferito non parlare, anche perché a questo punto del dibattito mi sento così lontana dalle vostre posizioni che credo sia solo tempo perso. Non servirà a niente. Solo a inasprire i vostri cuori nei miei confronti. Colsi l'occhiata obliqua di Platone, mi feci forza. L'altro ieri, mentre analizzavo le leggi, ho avuto paura. E quella sensazione oggi, dopo avervi sentito parlare, è ancora più forte, perché tutti hanno approvato, seppur con lievi sfumature, quello che Platone ha scritto. Il problema non è degli dèi, non è una questione se esistano o no. Il problema è che l'uomo più colto del mondo, il filosofo più stimato, il maestro più seguito, a cui principi e re fanno la corte, abbia sentito la necessità di scrivere un libro per obbligare tutti i popoli a credere agli dèi. Per legge. Chi non crede agli dèi può essere accusato di impietà, può essere condannato a morte. Cercai di farmi forza per proseguire. Sentivo che dovevo essere sincera. Anche se voi tutti foste in perfetta buona fede, ovvero se credeste realmente negli dèi, sarebbe comunque un fatto gravissimo, perché voi non dareste alcuna possibilità all'uomo di poter scegliere. Ma io penso che nessuno di voi ci creda. Per voi gli dèi sono soltanto un mezzo per sottomettere la gente, per far sì che il popolo sia un immenso gregge addomesticato, che non crei problemi. Schiavi che adorino gli dèi seguendo le vostre leggi, terrorizzati di compiere atto di impietà e quindi di essere ammazzati. Nell'aula regnava un silenzio di tomba, rotto solo a tratti dal biascicare nervoso del maestro. Seconda considerazione, ancora più grave per l'Accademia, per voi che siete studiosi, filosofi, scienziati, matematici, geografi, medici e astronomi. Voi partite da una premessa che nulla ha a che vedere con la realtà, quella che si snoda qui ogni giorno sulla nostra terra. Il premio che voi promettete a tutto il complesso dei vostri studi è la perfezione, la ricerca della perfezione. Ma questa non è la storia dell'uomo. La nostra storia è fatta di dubbi, di lacrime, di puzza, di sudore, di tradimenti, di pentimenti, di amore, di incertezze, di miserie. E forse la nobiltà di un uomo risiede proprio nel sapersi rialzare dalla polvere in cui è caduto, nel porgere una mano a un'altra creatura che soffre. E forse per il cielo, le stelle e gli astri è la stessa cosa. Platone ha chiesto e voluto da Eudosso e da Eraclide una spiegazione, un sistema perfetto, un cielo perfetto. E solo i cerchi e le sfere sono perfetti. Ma forse Eraclide e Eudosso hanno fatto male a non provare altre strade meno perfette, che tuttavia potrebbero spiegare tante cose che continuano ad apparirci misteriose. Io credo che questa ossessione, questa ricerca della perfezione, sia un grosso limite per degli studiosi di un'accademia prestigiosa come la vostra. Rimasi in piedi, cercando di trattenere il fiume di altri pensieri che si accavallavano dentro la mia mente tempestosa, che fremeva perché gridassi qualcosa di più duro a chi aveva osato chiamare Diogene lurido pezzente. Nessuno fiatava, neanche Platone si decideva a parlare, poi sfiorò una mano del suo allievo, annuendo seccamente col capo. E Aristotele si decise a commentare le mie parole.